Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buonasera, anzi buongiorno, l'ultimo indice della stagione prevede di parlarvi di gratitudine, di un sorprendente esempio di revisionismo storico, nonché di parcheggi.